Ja, ich glaube auch, wir machen es ganz kurz, weil wenn wir jetzt noch brauchen, wir noch mal zwei Stunden. Also, zunächst gehe ich über Sizilien, da waren ja eh diese wunderschönen Karten, wo man eigentlich alles relativ gut mitverfolgen konnte. Also erst die Dreiteilung in die drei Täler, die ja auf der ersten Karte sehr gut zu sehen war. Dann ging es über die Diözeseneinteilung, das kann man auf der zweiten Karte sehr gut sehen, die älteren und die neueren Diözesen. Man muss noch dazu sagen, dass eben in Sizilien mit der normannischen Herrschaft auch die kirchliche Struktur wieder aufgebaut werden musste, weil ja unter den Musulmanen keine mehr vorhanden war. So kurz oder noch kurz? Dazu noch eine Zusatzfrage, ist etwas gesagt worden über das Verhältnis kirchlicher oder kirchlicher und weltlicher Organisation. Lehnt sich das an, sonst frage ich dann danach. Ja, fragen Sie danach. Also es ist noch gesagt worden, dass natürlich diese Kirchenstruktur von den normannischen Herrschern nur deswegen aufgebaut werden konnte, weil wir natürlich die Legatia Apostolica von Urban II. Erhalten haben und dadurch selbstständig eben agiert haben und wurde dann eben dann sanktioniert. Also in Sizilien hat der König oder der vorhergehende Graf und Herzog eben die völlige Oberhoheit über seine Kirche. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Deswegen konnte er dann ja auch selbstständig eben zum Beispiel die Diözese Montreal einrichten, was ja normalerweise nicht möglich ist. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die bei dieser Territorialeinteilung eben die Musulmanen immer mehr in den Hintergrund treten. Aber ganz am Anfang, die Territorialeinteilung stand am Anfang, die wurde übernommen praktisch von den normannischen Persern. Diese Aquanen, das waren eigentlich militärische Distrikte, die normannischen Herrscher dann aber als Territorialeinteilung übernommen haben. Als dann die Normannen Könige wurden, wurden in Sizilien zwei sogenannte Regiones oder auch Provinzen eingerichtet, an deren Spitze ein Justiziär stand, der zunächst Organisationsaufgaben über militärische Dinge hatte, dann allgemein aber auch Jurisprudenz. Die hohe Gerichtsbarkeit übernahm, während die zivile Gerichtsbarkeit bei den einzelnen Baronen geblieben ist. Daneben gab es zwei Sekrete, einer saß in Palermo und einer in Messina, die hauptsächlich für Steuerangelegenheiten zuständig waren. Die lokale Justiz wird bei den sogenannten Bairi, die ebenfalls also Königsbeamte waren. Es verändert sich nicht viel durch die Herrschaftsübernahme der Anjou und auch durch die Aragonesen bleibt es in etwa gleich, nur die Macht des Adels wird gesteigert. Es bleiben zwar diese justiziergartigen Sekreten bestehen, aber die Aristokratie übernimmt praktisch die Städte und ihre Gebiete und erreicht in ihnen eine gewisse Vormachtstellung. Das kommt dann zu einer, im 14. Jahrhundert kommt es dann zu einer neuen Organisation und die Justiziarati werden in sogenannte Capitano Reggio, wird an die Spitze jeder Stadt gestellt. Und die haben die Gerichtsgewalt über den Stadtdistrikt. Und dieses Amt wird immer wichtiger und wird dann zum Großteil vom Adel besetzt und erhält die volle Jurisdiktionsgewalt sowohl in zivilen als auch im Strafsachen. Die übernimmt auch die Kontrolle und die Auswahl der lokalen Funktionsträger und es bleibt nur ein Königsvorbehalt für die hohe Gerichtsbarkeit zurück. Diese neuen Capitani Regi, die treten eben in Konkurrenz zu den Justizieren, die vorher da waren, und höhlen praktisch dieses Amt aus. Es kommt dann zu einer, auch diese zwei Sekreten, die wir vorher schon gesehen haben, die mit der Steuersache beschäftigt waren, die werden zusammengelegt zu einem einzigen großen Maestro-Segreto. Unter dem werden dann sogenannte Feature-Sekrete installiert in jeder Stadt, sodass die auch die Steuerkontrolle ausgeweitet wird. Und diese Bayouni, über die wir auch schon geredet haben, behalten weiterhin die lokale zivile Gerichtsbarkeit und besitzen dann auch lokale Administrationsfunktionen. Am Beispiel der Grafschaft Gervanti wurde das dann eben im Einzelnen erläutert und das kann man eben auch auf dieser Karte sehen, dass eben der Patron verfügt, gewisse Familien sich sozusagen eigene Herrschaftsgebiete aufbauen. Das wurde eben ausführlich an diesem Beispiel der Familie, wenn die Familie an der Grafschaft aufgezeigt, die eben durch Kauf, Tausch, Usurpation, Gewaltanwendung, die eben auch nicht in anderen Dingen nicht anders eben sowas wie ein eigenes Territorium aufbauen, das sie militärisch und ökonomisch kontrollieren. Die versuchen dann eben auch dieses eigene Territorium auszuweiten, indem sie zum Beispiel das Rektoratsamt in Cefalù übernehmen oder sich die Stadt Termini als Lehen geben lassen oder das Kapitanatsamt in Colina übernehmen. Also das besteht dann eben so eine lokale Herrschaftsbildung unterhalb der Königsebene. Der Gegensatz ist dann eben zwischen diesen lokalen Herrschern und dem König. In dem zweiten Teil des Referats ging es dann eben noch um die Städte. Also zum Beispiel Messina verwaltet dann seinen Distrikt rundherum, versucht auch die Kontrolle über den ganzen Distrikt zu übernehmen und nicht nur über das, was zum Beispiel bestimmten Bürgern dort gehört. Und wichtig erscheint mir dann noch ganz am Ende, ist nochmal auf die sogenannten Pancatori eingegangen. Es sind also keine richtigen Städte, sondern es sind Punkte an der Küste, wo das Getreide aus dem Hinterland gesammelt wird und von dort dann verschifft wird. Und die entstehen sozusagen in Konkurrenz zu den eigentlichen Hafenstädten, dadurch natürlich auch an Bedeutung verlieren. Und diese Pancatori werden immer häufig von Adligen gegründet und beherrscht. Im 15. Jahrhundert gibt es also dann drei entscheidende Determinanten in Sizilien, die Monarchie, die Städte, die man Universitatis nennt, und den Adel. Und die drei machen das die Herrschaft über Sizilien unter sich aus. Also ich glaube, das Land, und es ist wohl wichtiger, wenn dann eben Fragen kommen, dass man vielleicht in der Diskussion dann noch einiges näher erklärt. Und der zweite Vortrag, der hat mit dem 9. Jahrhundert begonnen. Ich glaube, das können wir ganz kurz fassen. Es gab eben sogenannte Hofämter, zum Beispiel die Guastalden in diesen lombardischen Territorien im Süden, die aber keine Territorien, die nicht an der Spitze eines Territoriums standen, sondern praktisch nur als Amt selber herrschen. Und da wurde eben diskutiert, zitiert das weniger eine Landesherrschaft als mehr eine Amtsherrschaft zeugt. Mit dem Eintreffen der Normannen ändert sich diese Situation. Anhand der Kastelle werden gewisse Herrschaften aufgebaut, die um das Kastell herum entstehen. Die schaffen da praktisch so etwas wie ein Territorium um das Kastell und das ganze Land wird in ein Feudalsystem einbezogen, an dessen Spitze der Herzog steht. Das muss er allerdings erst durchsetzen, weil diese normannischen Herrscher erkennen es nicht sofort an. Und man kann auch nicht sagen, dass das ganze Land einbezogen wird, weil es gibt bestimmte Bereiche, die sich immer wieder dem entziehen. Und also an der, während der normannischen Zeit haben wir also diese lokalen Territorien, die Grafschaften als Organisationssystem des römischen Festlandes. Das bleibt dann auch unter der ganzen normannischen Zeit so und wird erst, es wird dann durch den, es gibt dann noch die sogenannten Justiziarati, die wir von denen auch schon in Sizilien gehört haben, die werden auch das Festland übertragen. Und unter Friedrich II. Gibt es dann eine Ausweitung dieser Justiziarati auf 13 und später nochmal auf 15. Es ändert sich aber im Prinzip auch nicht sehr viel. Und vielleicht ist noch wichtig, dass eben diese alten Einheiten des Principato di Capua oder di Salerno, also diese vormaligen langobardischen Titel, die bleiben eben auch, kommen immer wieder mal vor als Verwaltungseinheit so übergeordnet. Ich würde sagen, vielen Dank. Oggi pomeriggio se ci sono domande, osservazioni. Solo una domanda, sempre da profano, sulla funzione dei parlamenti sia in Sicilia che nell'Italia meridionale continentale, in funzione appunto della questione. Sì, effettivamente bisogna ringraziare il professor Prodi della domanda. Dunque, il Parlamento, ovviamente il Parlamento come assemblea deliberante bisogna partire molto tardi. C'è una vecchia polemica su cui è meglio saltare a più pane, cioè, in anni lontani gli storici italiani delle istituzioni meridionali seguivano anche il vezzo del modello inglese, anche perché in Sicilia nell'età normanna c'erano stati tanti personaggi che si muovevano parecchio dal regno meridionale in Inghilterra e viceversa. È inutile che io vedo che anche il grande problema del modello inglese, il modello siciliano della struttura statale per regno normale, cioè in questo ambito, in questo quadro anche il discorso sul Parlamento. E naturalmente è rimasto sempre un'assemblea feudale fino a quando non ebbe un potere deliberativo. E allora questo potere deliberativo, comunque innanzitutto propositivo, nasce proprio nel 1398 a cui si faceva riferimento noi, nel momento in cui per l'influenza delle istituzioni iberiche, diciamo quindi delle Cortes d'Aragona, del Regno d'Aragona, si poteva chiedere, si poteva proporre da parte prima delle comunità cittadine, poi in sede parlamentare, si potevano avanzare dei cosiddetti capitoli che nel momento in cui, c'era nella mia esposizione, non lo so da, nel momento in cui ottenevano il pace e terreggio diventavano normativi. Questo, in sede parlamentare, questo sistema di evidente derivazione aragonese si trasferisce nel Parlamento che viene diviso per branci, così come in Aragona c'erano gli stamenti, quindi abbiamo il braccio ecclesiastico, il braccio aristocratico, il braccio delle città regie, no? Le quali però avevano, quale che ne fosse la dimensione lo spessore dentro, avevano diritto a un solo voto, anche se i rappresentanti erano diversi, mentre i signori avevano un voto per ogni feudo. Ecco, dal 1398, con Martino I, incomincia, diciamo, questa vuol dire che nasca un Parlamento almeno con questa possibilità. Con il Parlamento vero e proprio, non qui forse dovrebbe intervenire Vittorio, il Parlamento vero e proprio nasce con l'età, con la Sicilia Vicereggia, e nasce con Alfonso del Magnanimo, che instaura anche un sistema pattizio, per cui re chiedeva dei donativi, che era un nome nuovo per indicare una realtà antica, quella che erano le corrette antiche, diventavano dei donativi spontaneamente offerti dal regno, dai re vincoli alla corona, in cambio di privilegi, di prerogative per le città o per il clero o per la stessa aristocrazia. Ecco, soltanto dal 400 si può parlare di un Parlamento, insomma, che abbia una sua, che sia un istituto da poter vedere in un'ottica moderna e non più. Queste cose, bisogna pure dire che a queste cose si è arrivato a noi piuttosto di recente, perché, ripeto, sino agli anni 20 di questo secolo la storiografia presentava in maniera un po' diversa. Questo è quello che posso dire. Cosa bellissima in relazione al nostro tema, la questione parlamentare, l'intervento in cui ha risposto il professor Alessandro, cioè con le cronologie che vanno attentamente considerate, è particolarmente importante il raccordo fra l'esistenza di un braccio demaniale e la conferma e la stabilizzazione di quella rete di città che sono delle circoscrizioni, che sono a capo delle circoscrizioni di cui abbiamo parlato nell'ultima parte della relazione. Quindi c'è questo collegamento diretto che si collega poi in epoca Alfonsina alle questioni fiscali, alla questione del patto e dello scambio di fiscalità con senso. Non da aggiungere questo personale che contraggiunge, tranne che appunto nel Mezzogiorno continentale non c'è neppure il Parlamento del 1398 e fino a tutta l'età angioina i parlamenti non hanno neppure, a mio avviso, una funzione consultiva, semplicemente di rappresentanza. Là, giustamente, appunto, come si è sottolineato, l'età aragonese segna una svolta notevole, perché, per esempio, addirittura il Parlamento del 1456, l'ottobre del 1456, in questo Parlamento i baroni accettano di raddoppiare in cambio di altre, di raddoppiare le tasse che devono pagare da uno a due ducati in cambio di altri favori, ed è una pattuizione proprio che però evidentemente si svolge prima del Parlamento e non è che ratificata nel Parlamento, non è che la discussione del Parlamento dura proprio un giorno. Grazie. Io chiedo un po' un attimo, un attimo. Die Frage war, was mit dem Parlament in Sizilien ist. Und zwar nach wann man von einem Parlament sprechen kann, ist auch Entscheidungen trifft. Und ab 1398 wird nach dem Beispiel des sogenannten Cortes aus Aragon eben so etwas Ähnliches eingeführt. Also man konnte sogenannte Capitoli vorbringen. Wenn die dann das Platz vom König erhielten, wurden sie also zu besetzen. Und es gab in diesem Parlament sozusagen einen, es wird Braccio, also Arm genannt, des Adels, der pro Lehen eine Stimme hatte, des Klerus und der Städte, die nur eine einzige Stimme hatten pro Stadt, auch wenn es mehr Repräsentanten gab. Und auf diese Weise entwickelt sich das halt. Und von einem wichtigen Parlament kann man eigentlich erst unter Alfons dem Prächtigen sprechen, wo über sogenannte Donativi, das heißt, dort werden die Steuern festgelegt, im Austausch für Privilegien, so leuchten, so wird. Das ist eigentlich die Aufgabe des Parlaments. Das gilt für Sizilien jetzt. Und für das Festland kann man sagen, dass unter den Anjou gab es nichts Vergleichbares und auch hier erst Und in den Aragonesen wird es eben eingeführt. Zum Beispiel 1456 gab es eben auch so eine Art Abkommen, dass für Steuererhöhungen dann die Barone mehr Privilegien erhielten. Also auf diesem Weg über die Privilegien für Steuern kann man sagen, dass sich das Parlament entwickelt hat. Era solo una richiesta di chiarimento a Corrao o qualche ulteriore informazione sui grandi domini della seconda metà del 300 ai quali facevi riferimento, cioè soprattutto sul grado di legittimazione, di riconoscimento formale che avevano, sono, mi pare aver capito, piuttosto domini di fatto, no? Ecco, e quindi non hanno strutture cancelleresche, organizzazione, ecco, qualche informazione in più, perché facevi riferimento alla nostra gubernaccia, no, di Valla Fonte che citavi, che indica appunto una certa consapevolezza, diciamo. La questione è effettivamente molto grossa, la riassumo in estrema sintesi proprio. I domini sono di fatto in una certa misura, in una certa misura hanno anche una legittimazione, in quanto dopo la morte dell'ultimo sovrano della dinastia aragonese senza eredi c'è un vicario che è il più alto ufficiale del regno che non se la sente di governare da solo e divide con il titolo vicariale con altri tre. Quindi queste quattro aree di influenza hanno un riconoscimento di fatto. Per esempio la parte pontificia romana, siamo a metà dello scelto, si arriva quasi a un riconoscimento ufficiale, c'è un'enunziatura in cui Nicolò Sommariva propone in cambio di una serie di condizioni il riconoscimento ufficiale, quindi la perpetuazione di questo status quo. Quanto alla struttura di questi domini, ecco, quel documento è significativo per il nostro governo, soprattutto quello che precede mostra che la struttura è identica, la struttura amministrativa interna è identica a quella regia, cioè si mantengono gli ufficiali regi, i testi portulani, i faiuli, eccetera, eccetera, solo che sono di nomina comitale, di nomina del conte. Lo stesso tipo di organizzazione precedentemente, quando ancora non si era arrivato a queste aree di influenza così strutturate, ma nei domini propri dell'aristocrazia, si può in un certo senso rilevare lo stesso tipo di organizzazione. Ci sono delle cancellerie che ovviamente duplicano quella regia. Ci sono degli altri momenti, sempre nella seconda metà del 300, in cui, esistendo ancora il potere regio, coesistono vari livelli paralleli di amministrazione, per esempio la giustizia, oppure in cui questi livelli vengono forzatamente portati a interagire, per cui per esempio ci si accorda fra le fazioni aristocratiche e la corona, che dice mi avete ridotto a parte invece di essere arbitro, si arriva ad un accordo per cui i giudici della corte centrale del regno vengono nominati due da una fazione baronale e due dall'altra, però poi neanche questo accordo funziona perché ciascuno dei maggiori nobili ha la sua gran corte che funziona come gran corte regia, si sostituisce alla gran corte regia. Una piccola postilla, in realtà della struttura interna dei domini signorili del 300 siciliano non è che si sappia moltissimo, anche in assenza di documentazione diretta, non ci sono carte di queste cancellerie nobiliari. Aggiunta, perché forse per rivenzionare potrà avere un qualche valore sapere anche questo, è una storia antica, non è una storia che si crea, diciamo. Una storia che probabilmente incomincia già nell'età romana, quando, come diceva giustamente un eroe, giustamente figliolo, la conquista del meridione della Sicilia segue delle modalità che non sono certo quelle esemplari che fino a qualche tempo fa si volevano presentare. E molte cose vengono create sulla base di modelli che sono una raffa-raffa, come permetto di dire. Ma nel caso specifico, buona parte di queste cose, nella misura, nelle forme, gioca l'esempio di Roma e del Papato. Molte cancellerie, molte curie comitare, come ci diranno quelle normanne, e l'uso stesso del termine può risultare ambiguo, perché è difficile dire quanto ci fosse di franco, di germanico in questo uso, nell'uso di questa, nell'accezione, o quanto ci fosse anche di longobardo. Figuro giustamente rilevava che molte gestalte fanno la scalata e diventano comiti, no? Ma il discorso andrebbe un po' fuori dal seminario. Comunque non c'è dubbio che quando si creano queste cure cometane normanne, dalla fine dell'undecimo, sono molti gli ecclesiastici, per ovvi motivi, che sono dentro queste cure, e c'è molta, ora in che misura è difficile dire, qui, come dicevo, ora nessuno di noi può dire, perché poi l'area meridionale è studiata soprattutto dalla parte campana e pugliese, dove c'è la documentazione favorisce questa, e basta che ci si sposta un po' a sud, un po' all'interno, non si può dire più niente, si possono solo inventare, o fare delle, nemmeno ardite, ma in consistenti ipotesi, basta pensare a Calabria, Lucani, dove i documenti sono pochissimi. Die Frage ging danach, ob man vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen könnte über diesen, zu diesen Territorialherren in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ob die eine Legitimierung hatten oder ob die nur de facto existierten und ob es eine Kanzlei gab oder eine ähnliche Organisation. Also eine offizielle Legitimierung hatten die nicht, die existierten nur de facto, war die Antwort. Und es gelingt ihnen dann aber am Ende der aragonesischen Epoche sowas wie eine fast offizielle Anerkennung zu erhalten, aber Betonung liegt wohl noch auf fast. Und die Verwaltungsstruktur ist also sehr identisch mit der Verwaltungsstruktur des Königs. Es gibt da ebenso die einzelnen offiziellen wie Funktionäre, wie zum Beispiel diese Bajuli, die wir vorher schon gehabt haben, nur werden die jetzt eben von dem jeweiligen Landesherrn oder Grafen, oder wie man auch sagen möchte, ernannt. Und das war aber auch schon vorher so, bevor die praktisch diese Gebiete gegründet haben. Auch da gab es schon eine ähnliche Verwaltungsstruktur. Und eine Kanzlei hatten die auch. Und es gab aber dann auch so gewisse Teile, wo sowohl der König als auch die einzelnen Grafen Einfluss hatten und zum Beispiel jeder zwei Richter ernannten. Also es gab auch so Übergangsformen. Und die Antwort von Professor Alessandro hat sich dann auf die Normannen bezogen, und zwar auf die Kanzlei, die sich ja auch Curia Comitale nannte, und er hat eben darauf hingewiesen, dass man vielleicht den römischen Einfluss dabei beachten muss und vielleicht auch fränkische oder langobardische Einflüsse, und eben weiter darauf hingewiesen, dass im 11. Jahrhundert sehr viele Geistliche in diesen Kanzleien gesessen sind. Und der letzte Hinweis war eben, dass es keine Quellen gibt, höchstens eben für Kampagnen, wo die Sache auch mehr erforscht ist als für Sizilien oder für Lucanien und die Basilikaten und Lateranen. Ich würde gerne eine Zusatzfrage dazu stellen. Gab es noch irgendeinen Einfluss des Königs in diesen Adelsherrschaften? Also gab es noch irgendeine rechtlich definierte Beziehung, eine Appellationsmöglichkeit an den Königshof oder etwas Ähnliches? Und gab es auch keine Lebensbeziehung zwischen dem König und dem Adel, also die adligen Herren keine Vasallen mehr des Königs? Also die Frage war ganz, la domanda era se non c'era più nessuna influenza del re in questi domini dei nobili, se c'era la possibilità di magari appellarsi al re o e se esistevano ancora i rapporti vassallatici verso il re. Ma formalmente la maggior parte, o meglio i nuclei centrali delle aree di dominio dell'est Prezia Siciliana del 300 sono feudi della corona. Formalmente esiste un comaggio, formalmente esistono delle riserve nella concessione dei poteri. formalmente l'alta giustizia criminale è riservata alla Corte Regia, formalmente esiste la possibilità di appellarsi in sede giudiziaria alla Corte Centrale, ma è solo formalmente nel corso del Trecento fino al settimo decennio del Trecento c'è un progressivo deperire di queste possibilità fino a una esplicita ammissione del sovrano Federico IV. Nel documento che ho citato brevemente, in realtà è un documento molto più lungo, si fa riferimento proprio a questo aspetto. Quando si parla della Gran Corte divisa in due secondo le fazioni, si dice che la cosa peggiore è che non arrivano più appelli alla nostra Corte Centrale. Verifico una situazione che di fatto che ha ormai superato qualunque formalità che in linea di diritto esiste. Die Antwort war formal. Gab es also noch diese Appellationsmöglichkeiten, die Hochgerichtsbarkeit nach Frankönig und auch die zentralen Gebiete dieser Landesherren waren Lehen, aber eben nur formal. Und bis in die 60er, 70er Jahre des 14. Jahrhunderts kann man einen kontinuierlichen Rückgang verzeichnen. Und unter Friedrich IV. Gibt es dann eben ein Dokument, wo festgehalten wird, dass überhaupt keine keiner mehr sich an den Königsgerichtshof appelliert, also praktisch vorbei. Anch'io volevo chiedere qualcosa. Mi veniva in mente, sentendo le relazioni di oggi, un convegno a Erice di alcuni anni fa, organizzato da Tudela sulle frontiere, sui confini, in cui Henri Presque disse, non so se qualcuno dei presenti c'era, di fronte a Dubert, che non apprezzò la battuta, che in Sicilia non ci sono confini, la storia della Sicilia non conosce confini. Questa era un pochino... Ora, sentendo le relazioni di oggi, però, ecco, ho avuto questa impressione che in effetti ci sia come un andamento a corrente alternata, cioè da un lato un potere regio che cerca di definire delle strutture amministrative e di potere in sostanza, con alcuni momenti forti, per esempio il regno normanno, cioè il secondo periodo normanno da quello che ho capito, e poi la fine nel XIV secolo, quando si sono fermate le vostre considerazioni. Ecco. In alternativa a questo, dei momenti deboli di questi confini regi, o meglio, i confini regi, come dicevi tu prima rispondendo a Varanini, magari gli italiani restano, ma sono come, diciamo, cambiano di colore e di significato, nel senso che diventano strumenti. Ecco, quindi la domanda è un po' questa, una conferma in effetti come valutazione complessiva di queste vicende, di una fragilità di queste strutture di confini, laddove confini si intendono appunto aree di poteri fortemente strutturati in sostanza, e quindi una fluidità, no? Ecco. E allora la domanda era questa, anche se può aprire un discorso, in questo contesto di poteri fluidi e quelle circoscrizioni ecclesiastiche a cui voi avete fatto riferimento per il primo periodo, anche magari nell'Italia, non nel mezzogiorno peninsulare, hanno un ruolo, cioè questa rete fitta di diocesi e di centri, ha una storia che non interferisce con quella di formazione di, come dire, di nuclei di forza, di strutture in qualche modo consistenti in questa fluidità e pluralità di poteri, oppure quella ecclesiastica e quella civile sono storie diverse. Mi rendo conto che una domanda in anno basta. Sì, è una domanda molto pertinente anche. Vediamo di spingere all'essenziale. Perché la storia delle strutture ecclesiastiche è una storia che sì, forse, non lo so, forse se l'ho capito, tenendo parallelamente le vicende che sono insieme, del potere, diciamo, pubblico, di quello laico, e anche le le vicende non soltanto interne alla Sicilia, perché non lo so cosa volesse dire quella frase, ma è chiaro che, come è vero che l'isola è un'isola, è anche vero che non si capisce niente se si isola tutto questo. Allora, le strutture ecclesiastiche è una storia che corre intrecciata alla storia del papato, alla storia delle vicende interne, però è anche vero, ma qui esprimo un'opinione personale, quindi un'opinione, che la storia forte delle strutture ecclesiastiche, quale la si ha per tutta l'età normanna, io ho voluto rilevare la concordanza, la consonanza tra il potere ecclesiastico e il potere politico per tutta l'età normanna, questa consonanza che comincia a venire meno alla fine del secolo, quando ai normanni subentrano i disdevi di Enrico VI e il furore Teutonius, no? Da lì comincia una storia che non è certo più in favorevole alle strutture ecclesiastiche, nel senso che è una storia che si deve continuamente misurare e confrontare con il potere politico. L'epoca di Federico II non è certo una bella età per le strutture e probabilmente c'è una risalita positiva nell'età angioina, ma nell'età aragonese, cioè nel pieno 300, la storia delle strutture ecclesiastiche è una storia dell'elettorato tutta intera. Cioè non è qualche cosa, diciamo, che si possa isolare per quanto riguarda, diciamo, la storia non puramente istituzionale, ma è una storia tutta interna, un sistema di potere che costringe la struttura ecclesiastica ad adeguarsi. Per cui c'è questa continua ricerca di una difesa da parte dell'alta gerarchia, mi riferisco non soltanto agli arcivescovati di Palermo, di Monreale, ma anche ai grandi arcivescovati come Messina, Siracusa, un po' tutti, la ricerca di una difesa attraverso la democrazia, che anche questa è una storia ambigua, perché i nobili molte volte sono ora protettori. Si vorrebbe fare l'esempio, in fondo all'interno di questi nostri interventi, un esempio è quello di Cefalù. La cui storia procede ora in consonanza, ora in aperta dissonanza con il potere dei individui, i quali sono insieme protettori. Ecco, per dare un esempio, non ricordo in quale anno, in quale decennio dell'epoca sveva, c'è uno dei primi Ventimiglia, il quale sostanzialmente sfascia il tetto del Duomo, poi, perché viene in disaccordo col vescovo, che poi a sua volta stava male perché Federico II lo maltrattava, per usare un eufemismo, e poi questo stesso Ventimiglia, Baraldoino, poi fa ricostruire il campanile da campagna, però naturalmente ci fa ammettere che quello l'aveva fatto lui, no? Alduino Ventimiglia l'aveva fatto lui, che l'aveva sfasciato, no? E cioè questo gioco, oppure Corrado non ha avuto tempo di dirlo, quando un Ventimiglia, sarà un Francesco Pinto, poco importa, ha deciso che gli serve soprattutto un bosco che era del vescovo di Cefalù, non proprio il nome, insomma andiamo alla modalità, il vescovo di Cefalù è costretto lui ad andare a Genaisci e dice il documento che nella cappella a fare Santa Lucia e Sant'Anna il notaio, questa è una risposta anche a Paranini, il notaio del conte stilò che il conte dice che il vescovo di Cefalù cedeva quel bosco e quel pascolo al conte, il quale ne aveva assoluto bisogno per le sue mangi, aveva un mare in terra, no? Ne aveva assoluto bisogno, e che accettava una somma che naturalmente non ricordo, insomma, ma comunque una somma assolutamente irrisoria in relazione a che comunque il vescovo dichiarava che era una somma che andava bene in quel momento di estrema povertà del vescovato. l'ho buttata sugli aneddoti, ma credo che l'esemplificazione possa indicare, per cui si può dire che ci sia una storia tutta in positivo o spesso in negativo a seconda dell'osservatore. D'accordissimo su questa alternanza di momenti forti e momenti deboli. E qui però aggiungerei, tra quelli citati, qui non abbiamo avuto ovviamente il tempo di specificarlo, un momento particolarmente forte, particolarmente importante, che è l'inizio del regno indipendente di Sicilia, diciamo, cioè dopo il 1282, in cui un modello di Stato diverso, di importazione, uno Stato che ha forti caratteristiche fasciste, una cultura politica con fortissime venature della, diciamo, della mala francescana, legata ai spirituali, eccetera, viene sovrapposto sulle rovine di quello che era, sulle rovine, o meglio, su quello che rimaneva, della struttura svevo-angioina dell'amministrazione del regno, della politica del regno, dei rapporti sociali. Quindi anche questo è un momento forte. Un momento forte che dura poco, un momento forte che ha caratteristiche tutte da studiare. È legato a questo un altro un problema che riguarda la struttura ecclesiastica. Le strutture ecclesiastiche nella nostra relazione spariscono a un certo punto. Spariscono perché c'è un vuoto, volutamente c'è un vuoto. L'incidenza dell'area, diciamo, dell'ambito, di tutto ciò che riguarda ecclesiastica dell'isola è sempre minore nel corso del 300 per un fatto semplicissimo: la Sicilia è sotto interdetto. La Sicilia è sotto interdetto è una terra in cui nessun ecclesiastico partecipa al governo, nessun ecclesiastico sta a corte. Federico IV, quando deve incoronare, associare al trono, quindi incoronare il figlio Pietro nel 1222, non trova nessun vescovo disposto a collaborare. La Sicilia, dato le caratteristiche di strumento greci che avevano le diocesi in età normanna, con la apostolica garanzia, eccetera, i poteri vescovili, i poteri signorili dei vescovi che avevano agito in consonanza con la monarchia, subiscono lo stesso processo di erosione e di smantellamento. Abbiamo visto questi esempi che faceva il professor Alessandro, che è con qualcuno che ho fatto anche io. Stessi processi di erosione e di smantellamento che subisce il Demanio Regio dal punto di vista territoriale, questa per le diocesi. Qui sono le vittime, è particolarmente evidente nella documentazione della chiesa di Cefalù, il famoso Rolus Rubeus, che è una lamentela continua di quello che ha avvenato costretto per Magnus Timore Juan Belle, quello che citavo un momento fa. E le vittime, quindi, come il Demanio, da un sorriso di Gianmaria Renini durante la sua domanda, io ho avuto l'altissima impressione che forse questo quadro che si sta disegnando per la Sicilia trecentesca ci sia, sì, vabbè, fatto perché ci sia quasi un'immagine di sovrapposizione di modelli che sono pieno medievali, diciamo, pieno medievo, a un altro XIII secolo siciliano. E in fondo forse potrebbe anche essere una strada per costruzioni civili territoriali, eccetera, potrebbe essere una strada euristica, ovviamente, non concettuale, per superare una visione storiografica che invece ha sempre detto la storia di Sicilia come un contrasto eterno e immobile fra feudalità e monarchia, con un soggetto minorato che sarebbero invece le città che non riesce mai a svilupparsi, eccetera. Ecco, forse queste nuove strade, quasi una battuta quella del pieno di greco trascritto nel 300 siciliano, potrebbe però essere un rimandello utile, applicare certi concetti potrebbe essere un rimandello utile per determinare, o almeno in linea di principio, in linea generale, la natura di certi domini signorili, di certi processi che riguardano il potere regio e il potere al resto per sì. Ma perché non un modello di formazione dei domini territoriali in Germania? Molte delle cose che avete detto, cioè questa concentrazione di diritti patrimoniali, non patrimoniali, pubblici, signorili, eccetera, vi faceva venire in mente qualcosa che abbiamo sentito nei giorni scorsi di formazione, di emigrazione, di fastelli, di qualche cosa che... Probabilmente c'è una variabile che impedisce una comparazione, quella del potere regio, che effettivamente dalla fine del 300, per tutto il 400, e poi a maggior ragione nell'eterno delta con due gambe, con la corona spagnola, eccetera, ha caratteristiche fortemente diverse da quelle che abbiamo visto con la Germania, che in ogni caso sono in cui agiscono in maniera più mediata, in maniera sicuramente molto più mediata. Questa è. Sì, una piccolissima cosa a Baranini, cioè il caso, nel senso che intendevo lui il principio britannico, che è uno Stato nello Stato, che ha cancelleria propria e ben più che cancelleria propria, in testa i documenti di questi, talmente, è talmente potente che un cronista dice che era più potente di un re, cioè all'interno del Palazzo Vestini, e queste terre si estendevano quasi come che abbiamo vinto da Taranto fino a Napoli, oltre senza l'uscita delle sue terre. Talmente potente che il re Alfonso d'Aragona è costretto a far sposare al figlio Ferrante, il futuro re, la figlia di Don Antonio del Palazzo Vestini. Ma è l'unico caso, e mi ricordo il professor Villa, perché per il resto di Mezzogiorno d'Italia sembra la monarchia di Mezzogiorno d'Italia sembra essere più forte. E, mantenere la feudalità in limiti molto più ristretti. Quando infine quando c'è questo Chiottolini, devo dire innanzitutto che il periodo più forte da parte della monarchia mi sembra indiscutibilmente quello sveco, nel mezzo di Europa occidentale, molto più di quello normale. E soltanto a forza d'Aragona, ma con molta fatica e dopo anni riuscirà a raggiungere un controllo del territorio pari a quello che era Federico II. Certamente, parliamo di controllo del territorio, di controllo del territorio. E quanto alla Chiesa, mi pare che sia chiarissimo un dato ormai acquisito da parte della storiografia, dopo gli studi di Fonseca e di Vitolo, che i Normanni avevano in mente un disegno di coincidenza. Cioè, ad ogni contea doveva coincidere con un vescovato, e cambiavano. Promuovevano città dei centri che non lo erano per farle diventare appunto centri vescovi e comitati. Non solo, però è ancora più preciso perché al di sotto ad ogni centro castrale corrisponde una parrocchia. Quindi il disegno, l'intenzione di disegnare un'organizzazione di questo tipo è chiara nella dominazione romana. Le cose naturalmente cambiano totalmente con i suoi, perché questa rivoluzione giustiziale cambia le carte in tavola e le due amministrazioni prendono strade diverse, parole evidentemente un giustizierato non comprende una serie di vescovati, non c'è proprio più nessun tentativo di far coincidere le due circoscrizioni, cosa che invece era ben presto un agli occhi di loro. Grazie. La domanda era... La prima domanda, quello che ti ha cercato con Baranini, mi ha scritto il suo nome, e in Chiottolini in Sicilia, che gibt es keine Grenzen. Das war die Frage. Genau. Ja, also das Ausgehen ging dann von einer Tagung in Erdnische vor einigen Jahren, und da hat der Herr Press von sich gegeben, in Sizilien gibt es keine Grenzen, so als in den Raum gestellt. Und Professor Vittorini hat dann eben festgestellt, es gibt so alternative, alternierende Phasen, und zwar einmal, wenn der König besonders stark eben in der zweiten Hälfte der normannischen Zeit und am Ende des 15. Jahrhundert, und dann gibt es wieder Phasen, in denen der König besonders schwach war und sich eben, das befindet sich immer so im Übergang. Und das war die erste Frage, ob man dazu was sagen kann, zu diesen verschiedenen Phasen der Schwäche oder Stärke des Königs. Und die zweite Frage war, ob die kirchlichen Einteilungen irgendeine Rolle gespielt haben, ob die Kirche überhaupt eine Rolle gespielt hat. Und die Antwort auf die erste Frage, auf die zweite Frage kam zuerst von Professor Alessandro, und zwar, dass es in normannischer Zeit gewisse Konkordanzen gab zwischen der politischen und der kirchlichen Macht. Und unter Heinrich dem VI. Und Friedrich dem II. Wäre die kaiserliche Herrschaft nicht mehr so günstig für die Kirchen gewesen. Die Anjou sind übergangen worden und unter den Aragonesen wurde dann festgestellt, dass die kirchlichen Einrichtungen sich gegen die aufstrebenden Herrschaften verteidigen müssten, dass sie eben weiter zurücktreten. Und da wurde eben ein Beispiel gebracht, dass eben in Chefalu einer der Herren aus der Familie der Ventimiglia das Dach des Doms zerstört hätte und dieser gleiche Herr eben es wieder aufbaut und sagt, ich habe es also aufgebaut als Beispiel. Oder eben nochmal ein Beispiel aus Cefalù, dass der Bischof eben gezwungen wird, dem Grafen einen Wald zu überlassen und dann auch noch zufrieden ist und sagt, okay, ich bin einverstanden mit der Summe, obwohl sie lächerlich ist, ist schon alles okay. Und Professor D'Alessandro hat dann auch ebenfalls auf diese Frage geantwortet und hat gemeint, dass ein wichtiger Moment am Ende des 13. Jahrhunderts mit der Machtübernahme von 1282 der Aragonesen sei und dass wir eben da eine gewisse Stärkung der königlichen Macht haben, die aber dann, das bleibt eben nur ein kurzer Moment und müsste noch erst erforscht werden. Also da war jetzt noch nicht viel. Und im ganzen 14. Jahrhundert gibt es keine Kleriker an der Pforte und auch sonst nehmen die Kleriker keinen Einfluss auf die Regierungstätigkeit, weil eben über Sizilien das Interdikt herrscht. Und als Beispiel zeigt eben, dass Friedrich III. Sein Sohn, Federico III., seinen eigenen Sohn gründen muss, weil sich eben keiner bereit erklärt, dies vorzunehmen, keiner der Bischöfe. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass die Modelle, die für das Hochmittelalter in Norditalien gelten, vielleicht als Ansatz gelten könnten, im 15. Jahrhundert diese Geschichtsschreibung, die wir bisher über Sizilien finden, die den Akzent immer auf Feudalismus und Monarchie legt, zu überwinden und vielleicht dann neue Ansätze zu finden. Und dann hatte Professor Gittolini eingeworfen, ob vielleicht das Modell nicht sein könnte, eher die Herrschaftsbildung in Deutschland und die Vorgänge, die sich dabei herausbilden. Und Professor D'Alessandro hat geantwortet, dass in Sizilien noch eine weitere Variable dazukommt, nämlich die Königsmacht, die ab Ende des 14. Jahrhunderts so stark ist, dass sie eben nicht vernachlässigbar ist und wir das ja im vergleichbaren Raum in Deutschland eben nicht finden. Und Professor Gibiolo hat dann noch hinzugefügt, dass eben einen Territorialkomplex auf dem Festland gab, eben Taranto, da gab es eben nicht nur eine eigene Kanzlei und der war so mächtig, dass Alfons der Prächtige dann gezwungen war, seinen Sohn Ferrante mit der Erbtochter zu verheiraten, um eben dieses Gebiet so an die Königsherrschaft zu ketten. Und er wies weiter darauf hin, dass für ihn, seiner Meinung nach, auf dem Kontinent unter den Staufern die stärkste Königsstellung geherrscht hat und die erst wieder mit Alfons eben erreicht wurde. Und dann nochmal zu der kirchlichen Einteilung und der weltlichen Einteilung unter den Normannen gab es offensichtlich eben einen Plan, dass die kirchliche Einteilung mit der Grafschaftseinteilung übereinstimmen sollte. Es wurden eben auch bestimmte Städte zu Bischofsstädten erhoben und die kleineren Einheiten der Pfarreien sollten ebenfalls mit einem Kurzentrum übereinstimmen. Dieser Versuch bricht dann mit den Staufern Abbruch ab, weil diese Justizialverfassung, von der wir schon gehört haben, keine Rücksicht mehr auf irgendwelche kirchlichen Organisationsstrukturen nimmt. Entschuldigung, in meiner Antwort, ich sagte 14, nicht 15. Okay. Ja, was für ein Zesium oder was für ein Zesium? Okay. Prego, mi piacerebbe proprio dire, se se è possibile, delle estensioni, in particolare dei distretti o territori cittadini, però anche un po' più in generale, perché ho ricavato l'impressione dalla relazione che pur in estrema fluidità e stati comunque di territori ben più estesi di quelli tedeschi che abbiamo a confronto e forse più compatti, ma non so se questa cosa vorrei conferma o smentita, è legata appunto a una mia mancata storiografica di pensare alla Sicilia come mondo delle grandi distanze, o se questa cosa può trovare riscontro. Cioè, appunto, penso a livello divulgata alle diocesi dove dentro non c'è niente, ci sono queste grandi diocesi molto estese, senza altre circoscrizioni interne, ma vabbè, questa è solo una cosa. E poi un'altra domanda, se c'è qualche rapporto nel caso di Messina tra il districtus e gli antichi confini dell'Argine del Lato. Dei territori cittadini sono estremamente difficili da determinare, anzi quasi impossibili, ci sono pochissime testimonianze che si riferiscono esplicitamente al territorio della città. Sarebbe un lavoro enormemente complesso quello di ricostruirle, diciamo, sulla base di notizie sparse che dicono che la tale contraria si colloca nel territorio di questa o di questa città. C'è la possibilità di ricostruire in base alla presenza dei feudi nelle recensioni, nei elenchi, nelle descrizioni di cui per il 300 sono scritti tre. Ma lì si presenta il problema che avevo esposto nella relazione. I territori cittadini che formalmente comprendono grandi feudi, grandi domini, nei fatti non li possono comprendere in quanto questi sono dei fatti scorporati da questi territori. Se lo disegniamo nei termini in cui viene descritto nelle recensioni, eccetera, possiamo disegnare un territorio che grosso modo divide la Sicilia in una quarantina di 40 città del Mediano, 40 centri del Mediano, in una quarantina di aree grosso modo equivalenti. Dal punto di vista delle diocesi, invece, diocesi enormi e spopolate, per esempio quella di Monreale, non c'è alcuna coincidenza con territori di centro demaniale, con territori per civitatis, che è appunto difficile da definire, eccetera, ma sicuramente molto più limitato. La diocesi di Monreale, della cartina risulta particolarmente evidente, è una diocesi creata ex novo tutta in una volta, per motivi politici, per motivi di controllo del territorio, eccetera, una diocesi molto estesa, che peraltro ricalca da diverse altre diocesi. Quindi non c'è sovrapposizione, non c'è omogeneità nelle diverse divisioni territoriali. Né si può dire che la diocesi di Palermo, il territorio civitale di Palermo, possa in alcun modo ricalcare la diocesi, in quanto poi le diocesi venivano istituite per iniziativa regia con l'accorpamento, la dotazione di tale territorio, tale feudo, eccetera, con spesso variazioni di non piccola portata. I pochi esempi, peraltro non chiarissimi per quanto riguarda fatti, perché la situazione territoriale è minima e quindi bisognerebbe dare una scala più grande, dovrebbero essere piuttosto significativi del fatto che c'è questo continuo rivolgimento e riaccorpamento proprio per l'iniziativa legge. Su Messina, ma non so Alessandro, che dobbiamo trattare. Parte c'è da dire che è vero che la diocesi di fatti è piccola rispetto, anzi inconsistente in confronto alle altre diocesi, ma parte nasce da Lipari. È una storia popolare che comunque su queste cose quasi tutto, ha detto Mario Scaduto nel monachesimo basiliano, facendo la storia dei due monasteri da cui nascono, da cui nasce poi il vescovo. Cioè, l'idea era prima di fare vescovato a Lipari, ma Lipari evidentemente non era un posto solativo, o meglio, era solativo, ma era deserto. E c'è una prima abbazia, a cui corrisponde una seconda abbazia, ma dalla unificazione di queste due abbazie nascerà il vescovato. Un vescovato che non sarà mai riconosciuto se non da Papa Alessandro III. dice una delle tante questioni che contrappongono il re di Sicilia, i re normanni ai pontefici, per cui il borgo è sempre designato, eletto, ma non riconosciuto, non consacrato. L'altra questione riguarda forse il San Salvatore. Il San Salvatore nasce dall'idea, io permetterei di dire tutta politica, di dare una regolata ai tantissimi centri monastici basiliani, che quando Ruggero I arriva in Sicilia sono uno dei punti di forza, io l'ho notato anche se hanno passato, per diciamo una riappropriazione del territorio da parte del nuovo potere. Allora, che in Sicilia ci fosse ancora qualche basiliano parrebbe cosa scontata. Si fa il solito esempio del primo vescovo di Palermo, che nel momento in cui Roberto il Viscardo e il fratello minore Ruggero I entrarono a Palermo, gennaio 1071, si girarono e trovarono già chi poteva essere più vescovo cristiano e trovarono un tale che aveva nome Nicodemo, da cui Amare deduceva che fosse un prete del rito greco, un ecclesiastico del rito greco, e si parla anche di una certa chiesa di Santa Ciriaca, lasciamo perdere dalle parti tra Palermo e Morà, insomma, per dire che in Sicilia era rimasto qualche monaco, diciamo basiliano, anche se sappiamo che il termine è ancora improprio. E poi, nel momento in cui arrivano i normanni, che erano ben pochi, cosa che spesso si dimentica di dire, scelgono di sfruttare al massimo i monaci latini che erano loro seguiti, e poi di richiamare in Sicilia tutti i monaci del rito greco che se ne erano andati in Calabria quando la Sicilia era diventata musulmana. Allora c'è questa rinascita dei centri monastici, diciamo basiliani, ma c'è anche, come dire, il bisogno di un governo, e da qui l'idea di Ruggero II di creare il San Salvatore in lingua fari a Fimandrita. E però bisogna notare che il re si riservava dei diritti altissimi, nel senso cioè che si riservava il diritto di intervenire sulla decisione di ogni nuovo arcimandrito, il che significava che questa grande costruzione piramidale, alla cui cima c'era il San Salvatore, da cui dipendevano mi pare 42 case in Sicilia, 17 nella Calabria meridionale, qualcosa di questo genere, sostanzialmente erano le crisi e declino e fine del monachismo basiliano e della cultura greca. Ne ha visto una lunga, l'ha studiata ampiamente la Falkenhausen e Guglielmo Cavallo. Non è che ci sia la vecchia questione che i latini hanno sopraffatto i greci, c'è stato un esaurimento, è per buona parte il fisiologico greco. Non so se ho risposto. Die erste Frage ging nach der Ausweitung der städtischen Distrikte. Wie groß die waren und wie klein und ob man so mit den deutschen Städten vergleichen könnte. Und dann war noch eine Frage nach dem Archimandriten von Messina. Also es ist schwierig zu bestimmen, wie groß diese Distrikte waren, weil es keine Quellen gab und nur sehr vereinzelte Notizen gibt. Man müsste dann ein genaues Studium über die einzelnen Lehen machen, die sich in diesem Distrikt befinden oder nicht. Na, von formaler Sicht her liegen alle Lehen in diesem städtischen Bereich unter der Stadt, aber de facto sind die ausgegliedert. Und es gibt also ungefähr 40 Städte, Königsstädte in Sizilien, und über die gibt es halt weiter keine Untersuchungen. Und dann ist das Beispiel mit den Diözesen, ob die Diözesen dem Stadtterritorium entsprechen, das eben in Mittel- und Norditalien ist, oder öfters ist. Also es gibt keine Übereinstimmung, das Territorium der Stadt ist also viel kleiner, zum Beispiel bei Monreale, als die Diözese selber. Und auch für Palermo gilt das Gleiche. Dann wurde kurz auf Patti eingegangen. Das ist ein Bistum, bei dem es lange Streitigkeiten gab zwischen dem Papst und dem König, weil der Papst die Einrichtung des Bistums eben nicht anerkannt hat und die gewählten Bischöfe wurden die vom Papst bestätigt. Und nochmal zu San Salvatore, ist also ein griechisches Kloster in Messina und der Abt wird zum Archimandriten ernannt, das heißt zum Vorsteher sämtlicher griechischen Klöster in Kalabrien und Sizilien. Und die Ernennung des Abts bleibt aber beim König und der behält sich eben einen starken Einfluss auf dieses Archimandrit, wie man es eben nennt, in San Salvatore vor.